Thank you. Seconda parte di 451 frammenti sonori e siamo ripartiti come avevamo promesso. Noi manteniamo sempre le promesse. Ah, sì? Vero. Bello, Broadcast and Focus Band. Focus Band che, oltre a essere insomma uno dei progetti più interessanti degli ultimi anni per quanto riguarda la ontology, così è stata chiamata da Mark Fisher e da Simon Reynolds, ovvero due tra i più brillanti, forse il secondo brillantissimo critico vivente, forse magari qualcuno si offende, il critico più importante vivente, critico musicale chiaramente. Poi ne abbiamo ottimi anche in Italia. Ogni tanto ne passa anche uno molto buono, qualche volta anche delle nostre trasmissioni, no? Buon Gino dal Soler, grande Gino, che salutiamo. Infatti, sì, Gino dal Soler, chissà se ci rivedremo a breve. Infatti, non ci sono più occasioni qua. Ormai ha finito tutto, non c'è più niente a Bologna. un saluto quindi a Gino dal Soler via etere. E appunto Mark Fisher e Simon Reynolds, compagni di viaggio e di critica del nostro, insomma, dal Soler, hanno inventato questo termine per definire appunto quel percorso musicale, soprattutto della Ghost Box, ma adesso sentiremo anche un altro progetto particolare che si rifà proprio a un suono memmonico, annebbiato e volutamente anche rivisto in una chiave molto lontana, vaga, proprio perché affonda nei ricordi dell'infanzia. Sono più o meno trentenni i personaggi, insomma, che girano nella Ghost Box, tra i 30 e i 40, quindi diciamo negli anni, primi anni 80, erano bimbi e quindi ricordano vagamente quel passaggio tra, anche piuttosto particolare, tra i 70 e gli 80, quei umori strani che si respiravano all'epoca, un passaggio insomma storico. Basta ricordare insomma figure che adesso vengono anche insomma citate al cinema, ad esempio come la Thatcher, che tra poco uscirà questo film se non è già uscito, ma tantissimi sono i riferimenti insomma a questo periodo, un insieme insomma di memorie anche ribollenti, anche dolorose. Non è più quindi la postmodernità e la citazione a essere prese insomma come elaborazione a freddo laboratoriale, ma questo ritorno opalescente, annebbiato nei ricordi appunto dei bambini, adesso adulti, che viene ripreso, quindi musicalità che escono fuori da sketch televisivi, da serie televisive, da film poco conosciuti, visti magari nei piccoli di cinema di provincia, con le loro musichette strambe, esotica, che passava dalle radio all'epoca come sigla o come radio invenzione, anche per autocitarci, ecco, adesso. E Focus Group riprende, tra l'altro, anche Broadcast riprende nel vero senso della parola, perché dagli anni 90 fino agli anni 90 che non si facevano sentire, una sorta di anch'esso laboratorio della memoria già degli anni 90, per molti versi anche accostato a Stereolab, anche giustamente ricordano di Stereolab, anche se una versione ancora più opalescente, meno sicuramente brillante, più opaca, più grigia. I Broadcast forse sono quel lato chiaroscurale degli Stereolab, della rilettura della memoria degli anni 50-60, con Focus Group, che appunto appartiene alla Ghost Box, quindi è un giro che già il titolo dell'etichetta, il nome dell'etichetta dice tutto, una sorta di scatola per ripescare le voci dei fantasmi. C'è tutto questo mondo che ribolle, ma anche con questo senso appunto di quasi dolore rispetto a quello che è passato, non ritornerà più, e rimane appunto come impresso dentro questa scatola appunto dei fantasmi, che riesce a intercettare le onde elettromagnetiche dei vecchi suoni, dei vecchi umori e dei vecchi sentimenti. Bravo, devo dire che sono rimasto veramente senza parole, infatti non presenterò il prossimo progetto. E niente, adesso ci spostiamo ancora sul terreno della memoria, perché poi il discorso che avevamo fatto anche all'inizio della prima parte, la costruzione di questa puntata che si basa su questo, su queste due tematiche, citazioni e memoria. Nella prima parte abbiamo fatto un lavoro soprattutto sulle citazioni, adesso siamo dentro il discorso più della memoria. E dentro la memoria entra dentro perfettamente anche il progetto di Mortan Music, formazione importantissima, inglese, britannica, che già da anni che sta portando avanti un discorso musicale sicuramente legato all'idea della memoria, in particolare dalla metà degli anni zero, che hanno iniziato a far uscire delle cose egregie che abbiamo anche già inserito all'interno di 451 frammenti sonori. Abbiamo pescato un disco che non avevamo ancora visto e mandato in onda, cioè Dead Air, uscito nel 2006, dove appunto è costruito un discorso da parte di Mortan Music sulla memoria. In particolare tutto il disco si basa su un presentatore molto importante della TV, un presentatore appunto televisivo, Philip Ashmore, inglese, e su questo viene costruito tutto il discorso musicale, legandosi a questa memoria del passato di questo annunciatore che probabilmente nei ricordi degli stessi musicisti fa emergere tutta una serie di memorie, di piccoli particolari, di sensazioni, di dimensioni che vengono riproposte in un'ottica sicuramente anche di ricordo quasi nostalgico, ma non cade mai nella vera e propria nostalgia. C'è un collegamento sul presente, anche forse in una rilettura del passato, rileggere molto più concretamente anche il proprio presente musicale e anche personale, esistenziale. Ci andiamo a sentire dunque da Mortan Music Dead Air 2006, uscito per l'etichetta che non me la ricordo, non ve la dirò. Dovrebbe essere Mortan Music stessa, sì, infatti dovrebbe essere Mortan Music, Mortan Music, la stessa sua, la loro etichetta. Buon ascolto. Thank you. obituaries. Oh yeah, we had obituary procedure. Obituary procedure. Yeah, sure. This happened. Sometimes it depended on the announcer and the transmission controller how it was handled. I mean, it was as basic as that, and it entirely depended on the skill of the announcer. Because I did see it happen. And now here's to happy greetings to little so-and-so. He's setting the bids at wherever it is. And so-and-so. The telephone goes, oh, excuse me, give us telephone. Right, okay. Now, we go to... and yeah, just bang. We go to some music, a slide of music, just maybe, yeah, just have a break between it. And you have to be very careful. They used to postpone commercials when there'd been something like that, but you have to be very careful because you might have a holding for a light entertainment program right after something heavy. And it was up to you to, you know, get from that into the lighter thing. Well, we'll have more comedy for you. Oh, well, no, don't worry about that because we got... Yeah. I don't know what I said, but everyone just did what you felt was right and hoped it worked out for it. Everything's live. Even though we used to have little commercials that were live at one time. They were never on tape, but because I think I mentioned it on that, there was one announcer made a cock-up with Dr. Thingamabob's foot plasters. Dr. Scholl's shoes. Oh. Yeah. And after that, and the Sunday Mirror and the Sunday Mercury, I don't think I mentioned that one. After that, you then had to record everything because there's money being lost. And I was glad to because the fear of fluffing on those things. Yeah. It is, isn't it? Who? Well, of course, you when you were watching, your brains were really terrific. I mean, your brains are only a load of muscles, aren't they? And the things you absorb at that age. I mean, I can't remember what happened yesterday, but when I was about 14 or 12, oh, God, it's there as clear as sharp. I wish I'd learned something useful at that age and stayed there. It was a good job. I will not knock it. It was a very good job. I mean, I'm a person with no education, no particular talent, and I had good money for a long time. I worked very hard. I was very conscientious. I always did my best because I knew I was onto a good thing. And I didn't cause trouble because I thought if I lose this, I'll be back acting when I can get the work and the rest of the time working in Steve Williams. And I told them that. I'm happy with this. So everybody, all the announcers that I knew they were onto a good thing. I was at the end of the last, maybe 5 or 6 years, I was not happy at all because the last, when we ran through the night, there's a lot of new announcers that I didn't know that came on and did during the night, and I think they used to regard me as what was in the way of them and doing television during the evening, and they really disliked me. And I suppose it's always like this, though, in any business, you see something, God, he's been in there years, and if he wasn't here, I'd be doing that. And I felt uncomfortable, and they were not friendly and regarded me just as something from the dark ages. And no, I didn't enjoy that. No, I didn't work, absolutely didn't work like that. It's just old practice he's doing. Yeah, it actually hurt me. I was very hurt by it, and I kept thinking, I never said, and I kept saying, what did I do? What's wrong with me? What's the matter? Why won't you speak to me? And they just didn't like me. The people have begun. The drum has begun. Oh. E da Mordant Music abbiamo mixato, devo dire anche in maniera assolutamente lineare, ci aspettavamo anche qualche problemino, invece il lavoro con Nobukatsu Takemura, in realtà il disco in questione è un disco che ha avuto anche un certo seguito, uscito tra la fine del 99 e l'inizio del 2000 per la Non Such, etichetta sicuramente importante sulla scena della musica sperimentale. Si tratta di Reich Remixed e abbiamo ascoltato la traccia remixata dal grande Nobukatsu Takemura, che riprende ed esegue Proverb di Steve Reich con grandissima capacità. Non è facile mettere mano a dei lavori così ben strutturati, così compatti e complessi come quelli di Reich. Proverb è un'opera tratta da City Life, in realtà neanche tanto distante in termini temporali, perché questo disco è uscito 2-3 anni dopo la realizzazione di City Life, dunque molto vicina anche in questo senso. Per certi versi è anche più difficile il lavoro di remixaggio, di ricostruzione del brano. Un brano che prima di tutto Takemura lavora sul piano digitale in maniera piuttosto vicina anche allo stile e alle tecniche utilizzate tra la fine degli anni 90 e inizio degli anni 0, cioè queste frammentazioni, questa digitalizzazione molto marcata, che abbiamo oltretutto trovato in maniera molto chiara ad esempio nell'album di Tertelmitz che abbiamo mandato 2 settimane fa nella trasmissione appunto legato al riciclo, l'arte del riciclo, il riciclo dell'arte, e che appunto utilizza le stesse tecniche. Telmitz lavora appunto su una frammentazione digitale, su un errore che diventa poi musica, che diventa ritmo, che diventa anche melodia, e lo stesso lavoro lo fa Takemura all'inizio per poi costruire addirittura sulla battuta e sulla voce, cosa non tanto facile, minimale e minimalista utilizzata da Reich all'interno del brano Proverb, per costruire addirittura una battuta con la cassa dritta e sviluppare un brano assolutamente atipico, se pensiamo che la base di origine è il lavoro di Steve Reich. E da Steve Reich, sempre all'interno della memoria, ci spostiamo a una formazione che comunque ha segnato con una certa importanza, soprattutto nella scena techno e affine degli anni zero. Sì, la formazione che sta uscendo insomma molto alla scoperta in questi ultimi periodi, Advisor Circle. Si dice così? Advisory Circle. Se me lo dici tu che sei anglofono. Sono proprio maestro d'inglese, guarda. Ecco. Beh, è formazione anch'essa legata alla Ghost Box di cui parlavamo prima, e insieme quindi a Belbury Poli ma personaggi anche come Montvernum, Arts Lab, Focus Group, appunto messi prima insieme a Broadcast, cercano appunto di ricreare quella sorta di memoria sonora stratificata attraverso insomma gli anni che passano. Quindi questa stratificazione dà anche appunto un suono differente, cioè uno spostamento anche di sensibilità. Di questo chiaramente si rendono conto la maggior parte degli autori insomma che stiamo mettendo, non soltanto quindi sul piano postmoderno nella prima parte, dove lì appunto era di fatto un gioco sul passato, ma appunto un gioco tra virgolette freddo, se vogliamo intenderci, qua caldo, è fatto anche a caldo su cose ancora molto vive e addirittura resuscitate e fatte appunto riemergere, ma con appunto sicuramente quella coscienza del fatto che le stratificazioni poi sonore nel corso degli anni hanno creato un qualcos'altro. Quindi da qua nasce anche questa lontananza che c'è in molte progettualità, lontananza anche data proprio strutturalmente da forti riverberi, da una sorta di dabbizzazione di tutti i suoni, questa sonorità che entra quasi dentro una nuvola spazio-temporale, quasi a eliminarla definitivamente. Forse in questo senso sono contro il tempo sia Advisor Circle che Focus Band, Mordant Music e anche varie progettualità che stiamo mettendo, per certi versi anche Takemura, anche se siamo all'incrocio tra, sì, il tra gioco, citazione e memoria. Infatti, bene, andiamo quindi a sentirci a Divisory Circle, dal loro primo EP tra l'altro, che ha aperto appunto le danze per quanto riguarda questa formazione assai interessante. Beginning again. Beginning again. Und sie geben mir alle Kenne und ich verdanke mich schnell. all around your town. Not me, thank you very much. Sing that song about the monkey again. We'll catch a fox and put him in a box, and see we will go. Now let's sing it again, and I'll sing monkey all the time. Why not for donkeys? Gone. Really gone. Whereabouts did you come from? Pardon? Whereabouts did you come from? There's a book about him in the museum library. I'm quite sure I could get that on Proverbial. It's an old book written by an English philosopher at the turn of the century. It deals with experiments into the supernatural. The Advisory Circle, helping you make the right decisions. Out. mind how you go. Beh, una piccola correzione in corsa, li abbiamo in sottofondo adesso e quindi li abbiamo sentiti nell'ultima parte del blocco Advisory Circle. In realtà il blocco è iniziato con Position Normal, poi subito dopo Moon Wiring Circle, infatti qua i circoli, come dire, tornano, e non è un caso il nome che insomma si assomiglia a questo circolo, appunto Circle, sia per Advisory e sia per Moon Wiring, perché è proprio un circolo virtuoso ma anche vizioso, nel senso che appunto va a prendere da da quelle memorie quasi seppellite, dissepolte appunto dell'infanzia. Questi suoni non hanno più magari appunto la giocosità del sempre delica, ad esempio, di un Wagon Christ, che per tanti versi potrebbe essere anche uno dei loro padrini musicali, anche certe cose di Michael Rich, ad esempio di Paradinas insieme a Aphex Twin, ma anche lì appunto c'entrava un gioco più di laboratorio, seppure si intravedeva già un po' sentimento legato appunto a un'epoca passata, evidentemente, che appunto si voleva rievocare. E abbiamo sottolineato questa sera più di una volta l'attitudine, perché in quelle musiche c'era una grande avventura, soprattutto un grande senso del futuro. E quello che vogliono fare, sia Position Normal, Moon Wiring e Advisory Circle, come buona parte dei personaggi, togliendo chiaramente insomma i riferimenti, perché probabilmente loro hanno già fatto il futuro Cabaret Voltaire e Throbbing Gristle, che hanno iniziato la puntata di 451 frammenti sonori. Quello che vogliono fare queste nuove formazioni, queste nuove progettualità, è proprio ritornare a un'idea di futuro forte, quindi a una prospettiva. Il senso, insomma, anche negato del futuro dalla postmodernità e da un presente che è diventato preponderante, anche fin troppo, insomma, invadente, senza le grandi prospettive, se pensiamo all'allunaggio della fine degli anni 60, se pensiamo alla tecnologia come veniva vista ma anche veramente fino a pochi anni fa, e soprattutto giochino che torna, e come, se pensiamo a quello che doveva essere il 2000. Potremmo citare simpaticamente Elio Le Storie Tese, che da quando arrivò il 2000 dissero: beh, è arrivato sto 2000, sembrava chissà che diavolo dovesse arrivare. E invece sta roba qua, no, per citare insomma un giochino molto ironico di Le Storie Tese di qualche anno fa, ma veramente poi la faccenda è andata così, cioè da bambini per i trentenni insomma e su giù di là, o su di là, su di là, quando insomma erano bimbi immaginavano insomma il 2000 come qualcosa che avrebbe fatto volare le macchine, treni sopraelevati che scorrevano tra palazzi, tapirulan, quindi non si camminava più, cioè immagini insomma che sono abbastanza comuni in buona parte insomma delle generazioni appunto appena citate. E invece non è accaduto questo, quell'idea di futuro prospettico che dava buona parte insomma di anche forte vitalità futuristica alle opere dei 60-70 fino ad arrivare ai primissimi anni 80. Probabilmente già la faccenda con Blade Runner si chiude, dove c'è l'idea distopica poi del futuro, e quindi non per forza proiettata in avanti, insomma in maniera lineare e progressiva, potremmo dire. Loro appunto tornano quasi indietro per poter appunto lanciarsi di nuovo nello spazio, rimmaginare di nuovo lo spazio, quindi la tecnologia che porta altri modi di vivere, un intero insomma sistema che cambia di fatto radicalmente, avendo appunto questa immagine forte, recuperando paradossalmente questa immagine di futuro forte proprio dal passato. Si capisce che è tutto paradossale, ma forse il gioco è interessante proprio per questo. Eh sì, è proprio interessante per questo. Come interessante un personaggio che abbiamo messo in onda diverse volte nel passato come 451, ma sotto nome WWM. In realtà adesso, già da un po' di tempo in realtà, aveva costituito un progetto parallelo intitolato The Caretaker. Caretaker, che in realtà è Jim Kirby, personaggio assolutamente poliedrico, che ha costituito vari progetti e varie collaborazioni nel corso degli anni. Ormai sono più di 15 anni che sta portando avanti discorsi musicali nel terreno prima più prettamente digitale, poi spostandosi verso il terreno della memoria. E questo progetto proprio nasce come una sorta di collettore di memorie e di sensazioni che lo stesso Jim Kirby, che appunto sta proprio in quel range di età tra i 30 e i 40 anni, va a recuperare soprattutto negli anni della sua infanzia, gli anni 70, riportando appunto in vita, attraverso una collocazione sonora ma anche concettuale, tutta una serie di sonorità e di dimensioni che va a ripescare e a ricollocare all'interno dei suoi album. E noi siamo andati a pescare dal progetto The Caretaker, partito con il primo album del 99, arrivando fino al 2012, ma non manderemo l'ultimo album, andremo a pescare il penultimo, uscito poi in realtà l'anno scorso. Questo, l'ultimo, mi sa che è proprio uscito adesso, perché sì, siamo a gennaio, dunque 2012, credo che sia proprio uscito, sta per uscire. L'album che andiamo ad ascoltare invece è An Empty Bliss Behind the World, uscito per la History, Always Favors the Winners. Mangiato metà delle parole, però va bene lo stesso. Ma anche appunto i titoli del disco fanno ben capire il suo riferimento alla memoria, e in particolare anche al passato, ma anche a un passato remoto, perché qua ad esempio ci sono gli uomini delle caverne senza sole, ci sono varie dimensioni che lui va appunto a ritrovare. I brani che andremo a ascoltare, cosa mi vuoi far vedere? No, la stessa copertina è un sasso. È un sasso con una penna. Dipinto, sì, con un fiammifero forse. Bravo, un fiammifero, hai ragione. Sì, un po' tra un incrocio tra un disegno nei naif e una sorta di immagine che ricorda, insomma, un sorta di pupazzo. Pupazzo un po' malato, però sì, vabbè. Bisognerebbe chiedere a Kirby che cosa voleva rappresentare. Forse non voleva rappresentare proprio niente, gli piaceva sta roba e l'ha messa dentro, perché può anche essere quello. Bene, ce l'andiamo a ascoltare a questo punto. The Caretaker, An Empty Bliss Behind This World. Thank you. Beh, seriamente bello il lavoro di Seriamente, Kirby. Perché seriamente, se no, alle volte no, possiamo dire così scherzando. Beh, alle volte insomma la infarciamo un po' la cosa. Facciamo il un po' panino farcito, insomma, sì, con un po' di capelli. Che insomma va bene in trasmissione, quindi insomma si butta lì e si dice, beh, capolavoro, no? No, vabbè, a parte gli scherzi, no, le cose che mettiamo le mettiamo sul serio. Tu non masticare, che fai schifo. Con quelle chewing gum, che ancora ricordo veramente gli anni 70, ma queste sono... Ma non solo quelle degli anni 70, triste. Quelle sono... Le chewing gum anni 70 erano la gomma del ponte, te le ricordi? La gomma del ponte. Sì, la gomma del ponte. Sei anche andato un mese fa al ponte, ecco, cacchio. Vabbè, continua questa storia. Vabbè, gli ascoltatori saranno molto contenti. Comunque, a parte gli scherzi, volete anche delle stratificazioni molto interessanti, recatevi nella Grande Mela, perché lì c'è veramente una sorta veramente di impazzimento temporale molto interessante, in questo senso, stratificazioni veramente dei decenni trascorsi, che anni 50, anni 60, sì, anche esatto, prima del Novecento, c'è, sì, di tutto. Esatto. Anche non c'è però il passato, quello che lasciamo piace a te, gli Etruschi e le faccende, che così un po' così. Potremmo fare una volta la trasmissione, sì, musica sperimentale e Etruschi. Potrebbe, sì, essere una soluzione. Ce l'hai tu la registrazione? Sì, cioè, le hanno fatte proprio direttamente per te. Le hai rievocate con la scatola di legno dei fantasmi. La scatola dei fantasmi. Comunque, splendido anche quest'altro brano, lo ricordiamo. Sì, beh, progetto veramente interessante che partiva col terrorismo di WWM. Ricordiamo un disco assurdo che passammo un po' di anni fa, quando non avevamo ancora... Anche assurdista. Sì, non avevamo ancora bloggato l'intero 451 frammenti sonori, che era dedicato a Aphex Twin, dove devastava la musica. È vero. Già è devastante, vero, di Aphex Twin. E la devastava ulteriormente, sì, me lo ricordo, sì, benissimo. Sì, sì, certo. Ah, ricordiamo infatti, oltretutto adesso che hai citato il blog, che siamo sempre presenti per coloro che non lo sapessero, www.451frammentisonori.noblogs.org. Sì, dove appunto potete riascoltare le nostre trasmissioni e... ascoltare te soprattutto, perché... beh, quello lo sai che è sempre, come dire, una grande emozione, anche soprattutto per me riascoltarmi è eccezionale, lo faccio spesso, ogni giorno, così, perché prima di andare fuori perdo quel senso di identità, sì, è fondamentale l'autostratificazione, sì. Vabbè. E non mi fare dire autocazzate, mi incarto poi. Carl Tucker insieme a Leyland Kirby, che poi insomma in realtà è Jim Kirby, questo inglese che ci sta facendo veramente portare molto lontano con ricordi, rimandi, questo gioco incredibile. Tra l'altro, anche leggendo varie recensioni, nell'ultimo lavoro ad esempio di Leyland Kirby, che abbiamo mixato appunto con Carl Tucker, Eager to Tear Apart the Stars, viene molto ricordato Ino come riferimento. C'è una cosa che sembrerebbe scabrosa, poi in realtà più forse per i critici, perché non si vogliono magari ricordare certe faccende musicali, ma in realtà io sento tantissimo in Kirby e anche in personaggi ascoltati prima nel blocco frammenti, e tra l'altro appunto il blocco anche di Position Normal, Moon Wine Circle, Advisory Circle, era proprio legato alla frammentarietà. Sento dei frammenti proprio anche piuttosto massicci da Vangelis di Blade Run. Per qualcuno è una sorta di bestemmia. In realtà molti musicisti invece riprendono quel Vangelis, poi un altro Vangelis insomma interessa ben poco, insomma quello orchestrale, anche insomma, di certe colonne sonore che lasciano un po' il tempo che trovano, con melodie fin troppo stucchevoli. Invece quello di Blade Runner si sentono per tanti versi appunto frammenti che ricordano appunto la storica colonna sonora e anche appunto l'immaginario evocato di Blade Runner, che un po' appunto, come dicevamo prima, fa da spartiacque tra quei fine 70, primi 80, quindi quel passaggio anche delicato, quel passaggio che viene rievocato in buona parte delle musiche ascoltate questa sera, perlomeno per progettualità nuove. E finiamo con un personaggio che stratifica da molti anni, è proprio la musica fatta sugli strati delle memorie, dei suoni, dei rimandi, eccetera eccetera. Eh sì, è John Wall che ritorna dopo molto tempo su 451 frammenti sonori, compositore, ricordiamolo ancora, elettronico autodidatta, non ha nessun tipo di curriculum né accademico né di studi né di certificazioni ISO 9000, è un musicista assolutamente autoprodotto nel vero senso della parola, e questo ci fa molto piacere perché le composizioni che ha portato avanti in questi anni sono veramente splendide, tant'è che gran parte dei critici lo inseriscono all'interno dell'ambito più vasto della contemporanea. Questo significa veramente molto per un musicista che si è costruito totalmente da solo, e dopo tante elaborazioni, costruzioni e decostruzioni e frammentazioni di Wall è arrivato finalmente dopo ben 5 anni l'ultimo lavoro, uscito proprio alla fine del 2011, con un documento molto importante che stabilisce una collaborazione con lo spoken word, l'artista spoken word Alex Rogers, che lavora appunto in questa costruzione musicale dove Wall praticamente realizza una costruzione sonora con frequenze, suoni estremamente urticanti in termini proprio frequenziali, da frequenze molto basse fino a frequenze altissime, in una costruzione però estremamente complessa proprio della narrazione sonora, e dentro queste maglie, diciamo, sonore si inserisce la voce di Alex Rogers, che costruisce una sorta di dialogo assolutamente asincrono in alcuni momenti con lo spazio sonoro, ma complessivamente creando un flusso estremamente interessante che ricorda soprattutto nel spoken word, dunque nella narrazione, nell'utilizzo appunto della voce, delle parole, che voce che poi in alcuni momenti viene anche trattata da Wall, una sorta di ricordo, una sorta di memoria connessa soprattutto ai lavori di becchettiana memoria. In particolare noi ci ricordiamo lo splendido lavoro di Samuel Beckett, che è inserito appunto con Morton Feldman, disco di Morton Feldman, che abbiamo mandato anche in onda, questa collaborazione straordinaria, importantissima, tra due personaggi assolutamente importanti nell'ambito del Novecento. E questo disco appunto, che non abbiamo ancora presentato, è Work 2006-2011, appunto un lavoro che è stato portato avanti per 5 anni da John Wall insieme a Alex Rogers, e abbiamo uscito per la Entract, e andremo adesso ad ascoltare anche qua, tra l'altro, l'Abel che ricorda il film surrealista, lo storico film surrealista, quindi anche qua la memoria dell'avanguardia. Grazie. E ricordiamo che oltretutto questo è un disco che è uscito soltanto in 500 copie formalmente, poi speriamo che arriva digitalmente file MP3, anche certo. anche se qualcosa è successo, nel senso che alcuni motori di ricerca, alcuni motori di condivisione sono ancora attivi, però è arrivata la scura FBI e chiunque vada su internet ha visto che un sacco di siti sono stati completamente bloccati per adesso. Poi ci sono ovviamente gli hacker che stanno cercando in qualche maniera di spazzare via questo intervento repressivo dell'FBI, però l'ho verificato io stesso, hanno chiuso un sacco di siti, non riesci più a vedere niente. Staremo a vedere, sì, comunque la faccenda è di grosso interesse. I peer-to-peer rimangono ancora aperti perché è un discorso diverso, però i siti, quelli proprio che si trovavano girando su internet normalmente, anche per vederti un micro video, un micro pezzo, ascoltarlo, adesso sono stati assolutamente tutti chiusi. Per cui vedremo cosa succederà, però segnale. Ancora crepe ce ne sono, e quindi ben vengono, anzi, che queste crepe ne ritornino, insomma, certo, a fare uscire di nuovo luce. Però un intervento così pesante non era mai accaduto, ed è partito proprio dall'FBI. Comunque, copyright, chiunque porta avanti questo discorso, ci vorremmo confrontare volentieri. sul copyright. Sì, perché non abbiamo ovviamente questa posizione, però ci sono ancora molti, li ascolto ancora molto in giro, soggetti che difendono sto discorso. Va bene, andiamoci a sentire John Wall, Alex Roger, Work 2006-2011, e noi chiaramente su questo brano salutiamo e vi aspettiamo ovviamente domenica prossima, sempre sulle frequenze di Radio Città del Capo. E chiaramente, insomma, sempre alle 23:35 circa, andate a vedere il blog se volete appunto avere delle notizie, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Stasera, povera, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Memoria, quindi, citazioni, anzi, memoria si chiude qua. Alla prossima domenica. Alla ciao, prossima. Caro. Ciao, ciao, buonanotte. Sei bravo anche tu, sì, sì, mi sì. Fai sapere sempre cose brutte. No, ciao. No, no. And upon hearing what is not, upon hearing that which is probably nothing. Well, we spin in our pits is bound to be something bad. Bad news, eh? All the protocols of surface tension, the necessary resistance of the other, but it's hard, eh? The gravity of the middle, a conglomerate of compromises between what's practical and the other thing. My long arm reaches to the sheltered inlet, flanneling the muck, building up, oh, just getting by like everyone else. Seeing your father hang, watching your mother with my old friend, smiling. Greeting all. Anyone, anything, thinking that because it's not you yourself, it's bound to be clean. The street, no. Softly damming an archaic torrent. No easy task. Suspended mammothus, horn of the tampon, an unraveled ligature stuck on a wild thing. Plug in snow. Here lies the sport of our forebears. They're teasing their landscape. Rolling forward, is what they call it. Up thrusting on their metal trail, the socketed seascape. to facilitate the sanctioned shedding of light in pools to play beneath. Last comb pitch on yellow we see, the deeper goes the pole. Upper and grey and fungal wheels, subtle captive stays of go here and that. Chance inconsequential dapple rises up to overhead, but from an opening in the coated earth. Here is your horn, your tooth, your tusk. Here, through the punctum, through the encrusted hole. Table slate of law.